regina mia, torna da tuo papà, egli ti aspetta sempre con ansietà. Fra le sue braccia, amore, egli ti stringerà. La ninna nanna ancora ti canterà. Sei tutta la mia vita, tutto tu sei per me. Certo sarà finita se resto senza te, mio bene. Torna piccina mia, torna che il tuo papà, la ninna nanna ancora ti canterà. Tutta la mia vita, tutto tu sei per me. Certo sarà finita se resto senza te, mio bene. Torna piccina mia, torna che il tuo papà, la ninna nanna ancora ti canterà. La ninna nanna ancora ti canterà.